Quindi nel padre significa che raggiungo una posizione, successivamente la devo stabilizzare, altrimenti non ha senso, perché raggiungo una posizione che non è simmetrica o comunque manifesta un deficit, che ci faccio? Non ci faccio niente, bravo, devo lavorare, cioè ti ha detto niente, bravo, ok? Quindi devo fare una progressione, cioè devo fare delle stabilizzazioni. Che cosa sono le stabilizzazioni? Nient'altro che delle facilitazioni a mantenere una posizione sfruttando una contrazione isometrica. Isometrica. Quindi quando vado a dare una spinta al paziente devo ottenere come risposta una contrazione isometrica. Se do una spinta e il paziente si destabilizza, sto facendo un altro lavoro. Non mi interessa in questo momento, ok? Bene. E velocemente un paziente, vieni tu, adesso vi faccio vedere tutta la progressione che si fa in posizione supina e poi la ripetiamo tutti quanti insieme in modo molto rapido perché abbiamo poco tempo. Allora facciamo con le scarpe, togliamo, no? Coccia, vuoi mettere un lettino dall'altro lato? No, per ora. Cazzo. L'ultimo magari lo metti dall'altro lato, no? Bene. Allora, che cosa dobbiamo fare? Stabilizzazione. La prima posizione chiaramente è base d'appoggio ampia, altezza del baricentro, basso. Quindi che cosa chiederò al paziente? Non farti spostare i piedi. Bene, metti con la testa, guardate cosa succede al tocco, eh? Non farti spostare i piedi, rilascia, ok? Non farti spostare, così io ottengo una contrazione importante per il paziente e cerco di fissargli la posizione che mantiene in questo momento. Bene, poi che cosa facciamo? Stessa cosa possiamo fare utilizzando gli arti superiori, magari un fisioterapista si mette su, un fisioterapista si mette giù. No, devi ridere, ma sciocchi, era una battuta. Ok? Stessa identica cosa. Se voglio lavorare più su una zona un po' più alta o più bassa. Perfetto. Il concetto è utilizzare dei fulcri che sono lontani, nel caso in cui utilizzo dei fulcri distali e dei fulcri magari prossimali, ma sempre per facilitare una contrazione di qualcosa che è distante, non creo la contrazione di ciò che sto toccando, ma sempre di qualcosa che è un po' più distante. Bene, stessa cosa di prima, riduco la base d'appoggio e faccio questo: non farti spostare le ginocchia, mantieni, ok, chiudi gli occhi, mantieni, è questo, io gli devo dare la posizione dritta, questa è una stabilizzazione, quindi lei solo ed esclusivamente questo, l'altro è una destabilizzazione, la stabilizzazione è questa, una spinta minima che ti comporta poi una contrazione, va bene, non è nemmeno un braccio di ferro, ok, poi sulle braccia la progressione di prima, chiudi gli occhi, non farti spostare le braccia, non farti spostare le gambe, mantieni, ok? Quando dovete cambiare spinta, dite al paziente, soprattutto le prime volte, attento, chiudi gli occhi, attento, bene, mantieni e cambi, in senso opposto, Per quanto riguarda le braccia, lo potete fare anche in... Posso fare anche questo se voglio lavorare su una catena non crociata. Vieni. E questo. Perfetto. In realtà per queste altre catene c'è altro. Poi abbiamo detto che dobbiamo staccare i piedi e possiamo chiedere questo. Non farti spostare le ginocchia, non farti spostare le braccia. Va bene? Beh, non si deve vedere questo. Cioè nel senso non è che chi fa questo sbaglia e non capisce niente, chi fa questo sta facendo un'altra cosa. Un altro tipo di lavoro. Un altro tipo di lavoro, ok? che a noi non interessa se vogliamo fare delle stabilizzazioni. Queste sono, cioè, ovvero chi le usa così ce le insegna, noi così le tramandiamo. Bene? Sembra giusto il ragionamento, fa. Non è gerarchico, è giusto. È didattico. Chiudi gli occhi. Non farti spostare i piedi. Bene. Ok? Bene. Stessa identica cosa. Poi, che altro avevamo detto? Porta sul sedere. Poi chiaramente questo concetto lo potete applicare ad ogni posizione. Interessanti sono anche le stabilizzazioni prossimali. Tieni sul bacino, chiudi gli occhi. Solitamente quando c'è un deficit monolaterale o comunque asimmetrico, vedrete che un bacino rimane un po' più indietro. Quindi voi che cosa potete fare? Prendete forza da una parte, non farti tirare sul bacino di qua, bene? Portami sul bacino dall'altro lato, spingi contro le mie mani, ok? Effetti una rotazione. Mantieni così, non farti spostare. Se ho un deficit di estensione d'anca a destra, io metterò una mano avanti qui e una mano dietro qui. La mano va sempre laddove dovete evocare il movimento. Se volete estendere l'anca e mettete una mano qui, lui si appoggerà sulla vostra mano e non estenderà l'anca. Dobbiamo lavorare su dei tempi più o meno stabiliti o sulla resistenza del paziente? Fondamentalmente sulla resistenza del paziente. Considerate che in questa posizione, soprattutto quando iniziate a fare un lavoro come si deve, il paziente non è abituato a caricare, iniziano a venire crampi, insomma tutte queste cose qui, ma è normale. Poi il crampo, stendete la gamba, insomma. Per stendere l'anca a destra, spingiamo il bacino sinistro verso il basso e... Su? Se vuoi estendere quest'anca, cioè portare su la sias qui, che cosa devi fare? Devi dire, spingimi via, ok? Spingi contro la mia mano. E di qua, volendo, gli dici ruota, ok? O spingi contro le mie mani. È diverso da un'approssimazione che si dà magari per far sentire un po'. Non è un'approssimazione, è una stossa su un'articolazione. Okay. La differenza è che una è su un'articolazione, un'approssimazione invece. Sì, ma cioè, l'approssimazione non è. Non mi serve per questo fine. No, perché stanno tanti termini che non ancora dobbiamo mettere dentro. Allora, approssimazione significa che due capi articolari si avvicinano ulteriormente. Ok? E ha un obiettivo. Anche okay. Perché non lo spiegano invece con un riferimento ad esempio anche a crescere, no? Che è un'approssimazione a livello. Allora, guarda, non è un'approssimazione, è lo stesso identico principio di questo. Ok. Cioè tu non puoi approssimare vertex, ok? Perché la figura interparietale e la figura occipito parietale si muovono, ok? Cioè non sono un'articolazione. No, perché è un riferimento all'allungamento della schiena. Sì, non è un'approssimazione. È una facilitazione, una facilitazione. Ok. Poi, chiaramente può andare sui gomiti, vai sui gomiti, vai sulle mani, stacca i gomiti, vai sulle mani, lieva le ginocchia, solleva il bacino, solleva. Beh, stessa cosa può fare anche qui. Non farti spostare, va bene? Perfetto. Giù. Poi, insieme alle stabilizzazioni che applicate voi, potete utilizzare delle superfici tendenzialmente instabili, come la palla, la tavoletta che oscilla anteroposteriormente o lateralmente, e un carrellino. Ogni superficie evoca una superficie articolare, o comunque un rapporto articolare. Ad esempio, se prendete una palla, la potete utilizzare per le stabilizzazioni dell'anca. Se mettete una palla, fai il ponte, se mettete una palla sotto al piede, magari sotto al piede che sta in carico, voi in realtà non state lavorando sul piede, ma state lavorando su quell'articolazione che ti permette un movimento di quel tipo, cioè l'anca. Ok? Se mettete sotto al piede un rullo, una tavoletta che va, che scivola in avanti e scivola indietro, lavorate sul ginocchio. Se mettete una tavoletta che oscilla antero posteriormente, lavorate la caviglia. Se mettete una tavoletta che oscilla latero lateralmente, piede. Se oscilla così, lavorate la caviglia. In versione di versione la caviglia. Là sotto a stragata. Ok. Va bene, siete pronti? Adesso vi mettete lettini 2x2. Chi rimane fuori si mette a capo del lettino, vicino al lettino rimane in piedi. Mettiti in fondo, siete pronti? Mettetevi sdraiati. Togliete le scarpe, le adesso vi chiedo io. Pronti? Bizzarri? Adesso lo farai, arriverà il tuo momento. Allora, sdraiati. I terapisti sono ai piedi del letto e ai piedi del paziente. Ogni fisioterapista effettua una presa adducendo le gambe del paziente e mettendosi con le falangi del primo e del secondo dito al di sopra dei malleoli. Il resto della mano avvolge il calcagno. Bene, perfetto. Avvicinate le caviglie. A questo punto la cosa più importante da dire al paziente è: chiudi gli occhi, questo è il centro, io adesso ti sposterò i piedi verso destra e verso sinistra. Se non gli dite che cosa farete, lui non può capire, soprattutto se ha un deficit della sensibilità. Quindi a questo punto effettuerete tutti una spinta verso destra. Verso destra del paziente. Mantenete la spinta. Ok, il terapista deve cercare di guardare la contrazione che avviene a livello del tronco. Mantenete almeno 5 secondi la contrazione. Adesso stop, verso sinistra. Parlate con il paziente, deve dire solo poche parole. Attento, cambia direzione. Ecco, Refi ci ha detto di qua compensi un botto. Che significa? Quando lo spingo a sinistra, lui prima di riuscire a stabilizzare la posizione fa un sacco di movimenti col tronco, con le spalle. Il bacino e con la spalla. Ok. Ok, compensa un botto. Ok. Bene. Stessa cosa, là non ce la fate, per gli arti superiori, non la facciamo. Riduciamo la base d'appoggio. Allora, di un grado? Solo le ginocchia. Solo le ginocchia. Ok? Com'è la vela? Bene, allora mettete le dita a livello del compartimento laterale del ginocchio controlaterale a voi, l'avambraccio al di sopra delle ginocchia, bene, e poi chiudete. Perfetto. Ok, solo questo. Benissimo. A questo punto chiedete al paziente non farti spostare a sinistra. Occhi chiusi. Bene, il paziente a questo punto dovrebbe pensare, essendo anche un fisioterapista, quali muscoli si stanno contraendo. O comunque se la contrazione è differente rispetto a quella di prima. Perché prima era questo, eh? Adesso è questo. Quindi io però, per esempio, su un paziente che non mi sta a lo esamina al cammino, cammina tutto dopo, c'è lo sviluppo, la cintura, lavoro del genere, vuole mandare a rievocare, no, cioè non ha senso come ragionamento, posso fare tante altre cose, però non è il momento. Adesso cambio, no, ok. Fate tirare sulle braccia. Bene. Occhi chiusi. Le spinte sono opposte. Per gli arti inferiori utilizzate la stessa identica presa di prima. Cercate di essere avvolgenti e di appoggiare il più possibile le mani vostre. Le mani del paziente sono incrociate. Bene. Ok, la mano del terapista sulle mani, fermi, dove andate? Le mani del terapista sono sopra e avvolgono, perché in realtà quando cambierete poi la direzione non dovete spostare la mano, cioè tutte le dita sono appoggiate. Ok, pronti? Non farti spostare. Ok, bene. Adesso cambiate, cercate di cambiare la direzione della spinta durante l'esercizio senza destabilizzarlo, cioè gli dite fai attenzione destra, ok. Vedi come traballa tutto? No, no, c'è la mano, ci piace la mano. Sì, sì, infatti, voglio andare là due. Voglio andare lì due. Non mettete troppa forza, non deve essere un braccio di ferro, perché se diventa un braccio di ferro stimolate, nel caso di pazienti neurologici, andate solo a stimolare reazioni patologiche, ok? Quindi la contrazione deve essere minima. Se io ho spasticità all'arto superiore o al quadricipite, se vado a mettere troppa forza, mi faccio sentire al quadricipite e mi scivola il piede. Capito? In realtà il mio obiettivo è utilizzare queste basi, questi appoggi per contrarre il tronco, per stabilizzare questa posizione. Fin quando riesci, appena riesci a stabilizzare quella posizione, vedi che il paziente ha effettuato una contrazione. Ok, per farti un esempio è questo. Va, non ti mangi. non farti spostare. Siete? Allora, rimettetevi tutti in posizione. Rimettetevi tutti in posizione. Vieni, Jesse, mettiti tu di là. Adesso vi facciamo sentire quanta forza bisogna mettere per effettuare la spinta. Ok? Vabbè, tu fatti questo, io mi faccio questa. Tirati un bacino. Bene. Non farmi sbocciare. Ok. Vabbè. Sì, tu stai lavorando? Dentro, no? Vai su. Sì, Francesca, ti fai l'abbiamo visto prima per le catene di pressione. estensione di estensione. Così testa, capito? Così estendo. No, non ha senso. Canti di musica, secondo me. Impressione, due laterali. Ok, ci siete? Bene. Aspettiamo un attimino che finiscono loro. Sì, li posso richiamare dopo la gente? Sì, sì. Va bene. Pronti? Allora, adesso proviamo a fare qualcosa di più prossimale, quindi stabilizziamo con le mani sul bacino. Vai. Facciamolo con l'appoggio sui gomiti. Facciamo così, spinta simmetrica di Lesia, entrambe le mani del fisioterapista su Lesia. Facciamo prima una simmetrica. No, con l'eminenza, con il palmo, eminenza tenera e ipotena. Tra le eminenze mettete Lesia. Cercate sempre di avere una presa avvolgente e di non spingere troppo. Perché già sei in una fase apicale della mia, in più metti un altro caso. Tu non stai provando, eh? Tu non stai provando? Allora, fate attenzione ad una cosa, fate attenzione ad una cosa, quasi tutti quelli che stanno sotto, involontariamente per fare questo esercizio, tira sul bacino, alzano le punte dei piedi, ok? E spingono sul tallone. Questo qua è un compenso, perché in realtà se io voglio lavorare in catena cinetica chiusa e utilizzare il flessore d'anca e flessori di ginocchio e flessori d'anca, devo chiudermi la catena flessoria, quindi ci devo mettere la flessione plantare il piede, ok? A partire dall'alluce. Via. Sollevo il bacino. No, il campo, capito? Quindi ricordate questa cosa. Quindi non c'è senso sbloccare in questo modo, poi Coccia dice, quindi non ha senso che io mi metto con un ginocchio o con un pugno a bloccare i piedi che scivolano in avanti. Non ha senso mettermi così, perché se questo scivola è perché non c'ho questi, ok? Quindi se io non ho gli ischiocrurali in questa posizione della piramide, che cosa faccio? Scivola in avanti, cioè prima non mantiene la posizione. Appunto, non la mantiene, quindi che cosa faccio? Tiro dietro la pista. No? Non ce li ho, capito che non ce li ho perché scivola. E non ne ho. Non gliela faccio fare. Bravo. Torno indietro sfruttando un altro decubito e un'altra funzionalità. Quindi che cosa faccio? Se, visto che questo per gli scrupolari è contro gravità, che cosa posso fare? Estendendo là. Da pro non sto sempre contro gravità. devo andare in decubito laterale, per forza, capito? Sarò contro gravità per gli abduttori ma no per gli estensori. Quindi lo metto in decubito laterale, quando mi recupera un po' in decubito laterale lo metto in questa posizione. Ok? Se vedo che il piede non scivola più ho fatto un buon lavoro. E continuo la mia stabilizzazione. Va bene? In decubito laterale gli chiederò piega il ginocchio e stai bilanca, piega il ginocchio e stai bilanca. Ok? Sì. E se solleva il bacino? Guardate, se lei solleva qui, significa che sta compensando, sta imbrogliando. Quindi io gli devo far schiacciare le dita. Volendo gli chiedo dopo, stacca i talloni. Stacca i talloni, bene. Se riesce a fare questo, sono sicuro che il paziente, per portare avanti la gamba, non mi farà questo, perché riesce a fare questo. Ok? Ci siete? Ok, fate cambio, terapista, paziente. Terapista ai piedi del paziente, falange del primo, falange del secondo, cioè bordo mediale del primo, bordo radiale del secondo, al di sopra dei malleoli, il resto della mano, avvolgo il calcagno. Sì, a questo punto. Giovani, a questo punto chiedo al paziente gli occhi, non farti spostare dal centro e portate i piedi verso la destra del paziente, ok? Piano, il movimento dei piedi non si deve vedere. Cioè nel momento in cui le gambe vanno realmente dove le state spostando, significa che il paziente non ha sentito lo spostamento e voi gli dovete dire di rimetterle dritte, il vostro obiettivo è rimetterle dritte. Non si deve vedere solo la contrazione del tronco. Vieni, non farti spostare a destra, non farti spostare a destra. Stop. Adesso non farti spostare a sinistra. Occhio perché se esageri col ginocchio esteso di sicuro ci fatti. Poi ti diventi, ti fai criticare da collega. Devi stare attento. Vieni, non fa quelli qua. Vai, Bianchini, fammi vedere. Vediamo le ginocchia. Bene. Le dita del fisioterapista sul bordo laterale del ginocchio controlaterale. Il palmo sul ginocchio, l'avambraccio sull'altro ginocchio. adduco le ginocchia. Bene. Ricordatevi che macroscopicamente dall'esterno non si deve vedere niente alle ginocchia. Deve vedere il tronco che lavora. Ma se si alza il bacino è sbagliato, cioè nel senso. Nel momento in cui sta con il bacino. Non lo sbagliamo. Per fare questo sì. Ci siete? Sì. Vai, chiudi gli occhi. Bianchi, guarda quanti chilometri mi devo fare solo per te. Braccia e ginocchia insieme. Bene. Vai. Non farti spostare. Allora, sul bacino e stabilizziamo a livello dorsale. Lo metti dal coscio, con le braccia. Bene. Fatelo con i gomiti giù perché così lo fate bene. Zitti, seguite un attimo tutti me, mani su tutte e due le sillas. Fate quello che vi dico io, eh? Mani sulle sillas. molti adesso chiedete, fate silenzio, adesso chiedete al paziente di non farsi portare in basso il bacino e di sentire le di spingere contro le vostre mani. Concentrate, piano, a questo punto, spingete un po' di più con la mano destra e dite al paziente: tieni qui a destra, ok? Ma dovete dire mantieni. A questo punto la vostra mano sinistra passa dietro senza destabilizzare e chiedete al paziente: non farti ruotare. Ok? Così quando c'è la città cinese la vorrete sempre in modo diverso. Bene, stop, fermi tutti. Adesso lo rifacciamo insieme questo, Tu, Jessica, tu parlo di là. Sì. Tira su, vieni qui, mantieni qui, in posizione in ginocchio, Ci siete? Allora, in posizione in ginocchio è una cosa che fa un po' più interessante perché si vedono molto le alterazioni del carico. E voi con le stabilizzazioni le potete modificare. Cioè, che cosa significa? Se il paziente... Vai un po' più avanti, poi. Allora, se il paziente carica di più a sinistra e carica meno a destra, e quest'anca è un po' più indietro, perché non ha gli estensori, no? Io che cosa devo fare? Non lo devo spostare di qua, ok? Ma lo devo spostare ulteriormente di là. Gli devo chiedere, se voglio lavorare lateralmente, non farti spostare a sinistra. Dai, metti di dritto, non farti spostare, ancora, ok? Così gli evoco la contrazione dall'altro lato. Poi, se il bacino è spostato, vai un po' col bacino dietro, vai il bacino di sinistra, ok, a questo punto che cosa faccio? Gli chiedo, tieni qui dietro, spingimi avanti, spingimi qui, bravo, guarda che fa con le spalle, dritto con le spalle, bene, perfetto, ok? Sei capace a controllare le spalle, altrimenti devo fare un lavoro coordinato tra bacino e spalle. Quindi che cosa farò? Braccio avanti. No, sai perché? Perché difficilmente si associano delle stabilizzazioni con un fulcro prossimale ad altre con un fulcro distale. Quindi se lui ha portato il braccio avanti, non si può fare, anche se non è quello che volevi dire. No, è stato come se l'ha girato. Allora, su, fai il bacino destro di digitario, bene. Magari lui ha il bacino destro e la spalla destra. Avvicinate, punto deficitario, oppure se questo funziona, comunque posso utilizzare questi due punti. Come quando lavoravamo in posizione supina. Quindi che cosa faccio? Mi voglio concentrare sul bacino. Quindi prima spingo la spalla in avanti, perché lo schema fisiologico, no? Perfetto. Allora, non farti spingere la spalla avanti, stai dritto. Bene, non farti spingere avanti, adesso non farti tirare dietro il sedere. Bravo, tieni così. Tieni. Vai, ancora avanti il sedere. Bene, come se vuoi ruotare. Ok? Perfetto. Mantieni così. Quindi quando mettete in ginocchio un paziente e lo vedete asimmetrico, in termini di carico, perché c'è un'energia proprio di rilassamento, di forza, dovete usare questo, prendere forza da qualche altra parte e veicolarla lì. Senza però evocare reazioni particolari. Se io faccio questo e il braccio inizia a fare così, posso fare due cose. La prima e fare un passo indietro e abbassarlo dal punto di vista gravitario. La seconda, perché ho valutato che in questa posizione adesso la devo sfruttare, perché è importante, perché il paziente lo devo mettere in piedi, che cosa faccio? Prendo una bella fascia, gli fascio il braccio così la spalla non si sbrussa, non gli viene la capsulite, non si chiamano i denti, i legamenti, ok? E gli mantengo il braccio così. Di sicuro in questa posizione difficilmente si avranno delle reazioni poi, ok? Perché il braccio non deve solo gestire la gravità, ma anche lo sforzo. Allora, se voi lo mettete a riposo, le reazioni difficilmente possono essere evocate. E comunque un supporto della spalla ci vuole sempre se flash. Eh? Per esempio un emi in cui c'è una bella discesa dell'omero, una sbrussazione, mi conviene sempre lavorare con una faccia. La fascia dura è 8 oppure un tutore? La fascia dura è 8 oppure un tutore? Potete utilizzare un tutore, potete utilizzare una fascia dura Bobat, potete utilizzare, sì, potete utilizzare una carta elastica, potete utilizzare la cosa per attaccare il pugnetto della... cioè io utilizzo quello che trovo, basta che la... ok? Va bene? Quindi questa cosa poi si può fare una cosa anche più carina all'inizio, e si chiede al paziente non farti portare dietro, va bene, tieni così, ok, non farti ruotare, bene, non farti spingere, bene, ok, non farti spingere, non farti spingere, tieni qui, non farti ruotare, tieni, non farti girare, ok? Così lavori un po' su tutte le catene muscolari. Storie, sensori, rotate, via, proviamo. Per due. Questo è quella è un'altra cosa, quella è un'altra cosa. Cioè se io ti dico di stai su, stai su, stai su, stai su, hai capito? Per far sentire il carico è un'altra cosa, capito? Si fa in, questa, in questo modo, senti il carico di qua a destra, senti qua a sinistra, però questa è un'altra storia, una tecnica utilissima, però via il ginocchio, il fisioterapista si mette dietro. Cioè si può mettere tranquillamente anche avanti, però in questo caso oggi lo facciamo dietro. Così se cade il paziente, cercate di mettervi bene, per il fisioterapista deve stare in una posizione che se il paziente cade lo recupera, non è che cade a terza. Ma si so che c'è solo. Allora, le mani sono sempre sulle sias. Chiedete al paziente non farti tirare dietro, mantieni in qua a destra, ok, adesso spostate la mano sinistra, la mettete dietro, fate il giro, però senza destabilizzare il paziente. Voi tutti in letto, punta a punto. Mani avanti, ok, non farti passare, non farti tirare dietro, ok, tieni qui, simula un carico alterato deficitario a destra, cioè mettete più peso a sinistra, ok? No, non esagerate. Guarda, se il paziente non lo fa, se il paziente non lo fa bene significa che il paziente non ha mai nemmeno così. Allora, allora che cosa fai? Lo spingo verso sinistra. Esatto. Allora, tieni, Allora, vabbè, ma di qua vi fa vedere. Cioè l'idea è che qualsiasi deve appoggiare a voi e correggere, non lo dovete spostare voi, che se lo spostate voi non c'è contrazione. Però voi dovete subire resistenza. In realtà non è una resistenza, è una guida, capito? Qualcuno lo chiama transfert motorio, lo si chiama, che la mano del terapista è un transfert motorio. Cioè una guida. Che è una procedura che voi dovreste insegnare sempre al paziente, anche se è un paziente parkinsoniano, un paziente anziano, un paziente vecchio, che gli, cioè, potreste pensare che non è capace di effettuare quei movimenti, voi invece dovreste insistere di insegnarli, anche perché queste cose sono alla base di alcune scale di valutazione che poi vedremo insieme. Ok? E soprattutto quando il paziente impara a fare queste cose, nel momento in cui cade, per un motivo o per un altro, avrà qualche chance in più di rialzarsi. Va bene? Perfetto. Allora, che cosa dobbiamo fare? Utilizziamo il lettino delle signorine. Allora, trae. Siete? Sì. Allora, che cosa dobbiamo fare? La prima cosa è quella di mandare il paziente in decubito laterale, per forza, quindi giriamo sul fianco, gira sul fianco, tiriamo le ginocchia, bene. Allora, poi gli chiediamo di andare sul gomito, vai sul gomito, va bene, poi sulla mano, ok, poi facciamo appoggiare l'altra mano e soprattutto la testa, se non gira la testa poi non può fare l'altro passaggio. A questo punto gli chiediamo di andare in quadrupedica, facendo attenzione a questa gamba che può scivolare. Bene. Poi dalla posizione quadrupedica va dietro col sedere e se ne va in ginocchio. Poi dalla posizione in ginocchio va a cavallo serpente, che chiaramente può essere raggiunto con un appoggio, senza appoggio, ok? Okay. Da questa posizione, soprattutto un paziente anziano, visto che magari qua c'è la vasca perché è caduto vicino alla vasca, o c'è un passamano, insomma c'è il letto, da questa posizione, sempre aggrappandosi, può raggiungere la stazione retta. Va bene? Ma raggiunge la stazione retta? Prego. Fate un applauso. Quindi allora, quando una cosa importante, quando iniziate a trattare un paziente, la prima cosa che gli dovete insegnare è il rotolamento sul fianco, ok? Perché poi sarà propedeutico per tutte le altre attività. Quindi nel momento in cui iniziate a lavorare lo dovete fare girare sul fianco, successivamente lo fate andare sul gomito. Vai sul gomito, bene, e poi gli insegnate ad andare seduto se sta sul letto, così, possibilmente così. Vai giù, bene. Però il passaggio sul gomito, sì, va aiutato con l'altro braccio. Allora, va aiutato con l'altro braccio. Non è semplice, ci vorrebbe uno slancio per togliere il peso. No, allora, lo slancio... No, però è tardi, è difficile. Fate ragazzini, non ce la facciamo. Allora, la cosa che ha detto lui è piuttosto interessante, perché in realtà per passare in questa posizione un paziente anziano ha delle difficoltà, soprattutto strutturali. Quindi voi che cosa gli dovete insegnare a fare? A mettere le gambe fuori e contemporaneamente a spingersi. Nel momento in cui mette le gambe fuori si dà una spinta, va quasi così, fisicamente va in quella direzione e quindi diventa molto più semplice, ok? La stessa cosa anche per sdraiarsi. Quando si deve sdraiare, in realtà non deve mettere questa mano dietro e poi se ne va indietro, deve mettere questa avanti dove sta il cuscino, ok? E poi va giù, poggia questa, quest'altra scivola e va giù. E si deve ritrovare in decubito laterale. Dalla posizione supina non deve andare, dalla posizione seduta non deve andare supino, se effettua il passaggio da solo, ok? Dovreste sempre metterlo prima sul fianco e poi lo fate girare. Va bene? Vai, ripetiamo solo questo e ce ne andiamo. Allora, quelle sono altre cose. Quelle sono siamo al terzo anno. Così? Allora, mettiamoci tutti in posizione supina. Supini. All'interno dell'aula, delle aule le hanno prese? Ah, non sono tutti quelli che hanno. Ok, tutti supini. Adesso facciamo effettuare un rotolamento al paziente. Come si fa il rotolamento? Se voglio rotolare verso destra, si piega la gamba sinistra. Sapete questo? Si piega la gamba sinistra, si alza il braccio sinistro e si gira verso destra. Ma io non devo tirare, eh? È il paziente che dovrebbe spingere. Considerate che quando un paziente non sa effettuare il rotolamento oppure lo effettua solo aggrappandosi, c'è un deficit del tronco. Ok? Quindi la prima cosa che dovete fare è insegnare il rotolamento facendo sfruttare la muscolatura del tronco. Quella flessoria però. Bene, una volta che sta sul fianco, vi mettete dietro. Mettete un braccio sotto la testa con la mano che va sul gomito del paziente che in appoggio. No, non è questo. Il tuo braccio sotto la testa e la mano va verso il gomito del paziente. Guardate il ginocchio piegato, il fisioterapista guarda il ginocchio piegato e dice al paziente vai sul gomito. Ah, vedi, lui addirittura ha steso il gomito. Dopo l'appoggio sul gomito, appoggio sulla mano. Non fate mai passare il paziente in quadrupedica se non è andato in appoggio sulla mano, perché tanto li cade. Bravo. Lui è scontato. Tutti in appoggio sulla mano. Tutto a posto. Tutti in appoggio sulla mano. Adesso dovete chiedere al paziente di avvicinare la mano su cui è appoggiato al bacino, al suo bacino. Okay. Grazie a tutti. Quando chiedete al paziente di avvicinare la mano al bacino, il paziente effettua più movimenti per effettuare questo compito, significa che c'è un deficit del tronco. Ok, se io faccio questo, c'è un deficit del tronco. Perché se lo faccio in un unico movimento, significa che questi mi sorreggono e io mi sposto. Altrimenti se devo fare questo è perché non ce la faccio. Bene, una volta che sta in questa posizione gli chiedete di appoggiare l'altra mano a fianco all'altra, di girare la testa in avanti, mettete una mano sulla sias controlaterale a voi, quindi quella, ok? Bene, quella, okay. Una sias sulla mano che sulla. Una mano sulla sias che deve andare in avanti, ok? Ragazzi, Forza, lancia il nappo. Ci siete? Ci siete? Dai, faglielo vedere un attimo. Allora, è una